ricordo il carissimo dottor Pizzoli, qui per tanti anni medico a Bosco, non volle sposarsi, rimase celibe, per poter fare il medico a cuore aperto sempre. Un giorno, tornando da Sioster, una contrada di qui, chiamati ambedue ormai per la centesima volta, perché una vecchia non si decideva a partire, gli chiesi una delle ultime volte che ci trovammo insieme, quella volta a piedi proprio sulla neve che arrivava al ginocchio: dottore, cosa pensa di questa vecchia che poverina si trascina, è quasi tutta un'agonia la sua vita da qualche mese? Oh, non mi pronuncio. Sa, da giovane medico facevo anche dei pronostici, a volte dicevo, ricordo che una volta qui a uno di Bosco che suonava una contrada, io avevo detto a lui e alla famiglia, è questione di qualche giorno, poi ci rivedremo ai Campedelli, all'albergo che c'è proprio in piazza, a bere un grappino, perché a me sembrava che la crisi fosse risolta bene, tutto fosse avviato bene alla guarigione. Ah, me lo sono, mi sono trovato a leggere un manifesto sui muri, come? Ma come? Quello lì è morto? Ma no, avete sbagliato nome. No, no, dottore, e difatti ecco i familiari che vanno a chiedere il certificato, eccetera. Altre volte dice, io dicevo ai familiari, chiamate anche Don Misino, chiamate il parroco, perché questo qui sia no che campa fino a domani mattina. La domenica seguente me lo trovo a Campedelli che mi offre il grappino. Ma sei ancora tu quello vivo o sei morto? Sogno o son desto? Dottore, sono proprio io, sto bene. Oh. Da quella volta là io non ho più osato dire quando uno ancora sarebbe potuto vivere o quanto morto. È un mistero. Ogni ammalato, dottor Pizzoli, un mistero. E io non faccio più pronostici. I primi anni che ero medico condotto, sa, da giovani così si dà anche qualche aria. Ho imparato la lezione a non far mai i conti senza l'oste. E in questo caso, chi è l'oste? Lo sappiamo tutti. Sulla vita i conti li deve fare solo Dio. È Lui, noi siamo misteri. Mistero, quell'agonia che non finisce. Bravo, dottor Pizzoli, mi hai fatto più scuola tu che certi miei insegnanti di antropologia, di psicologia o di teologia. Mistero, mi disse dottor Gatti, medico qui per un certo numero di anni, chiamati insieme a soccorrere un morente, tornando insieme perché si doveva camminare a piedi sulla neve, mi disse, Donisino, mi sembra da quello che sento che lei ama molto la vita. Immagini, non sarei neanche prete, se no. E anch'io l'amo molto. E mi dica un po', lei come ha fatto a innamorarsi della vita, come risulta dalle sue prediche? Assistendo i morenti. I morenti? Sì. Vuoi che le dica io come ho imparato ad amare la vita? Assistendo al parto dei bambini. Tutti e due, mossi a ringraziare Dio. Perché è un mistero l'uomo che nasce, è un mistero l'uomo che muore. Perché è un mistero Dio che ci ha voluti, ideati, creati, conservati e ha amministrato in prima persona la nostra vita. In tutte le sue vicende e risvolti di cronaca. Oh, è bello questo.